l'IMU fosse sia un'imposta sbagliata, l'ho sempre detto, tenga conto che la Lega ed io non l'abbiamo mai votata, tutti gli altri hanno votato l'IMU. Anche questo, come dire, dall'idea di come la penso, per me ed è un'imposta sbagliata, va eliminata, va ridotta, soprattutto sulla casa, poi si tratta di vedere come e in che termini farlo. Ma la proposta di Berlusconi della restituzione la vede fattibile? Guardi, io penso che ci siano oggettivamente un po' di problemi di bilancio pubblico. Tenga conto che chiunque vada su, chiunque vince, deve fare una manovra da 14 miliardi di economie, di tagli o, se vanno quelle del PD, di nuove tasse.